Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. È domenica 1 dicembre 2013, 131esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Nella puntata di oggi concluderemo la chiacchierata con l'ideatore e fondatore del Parco Rifugio dell'Abatino, in provincia di Rieti. Parleremo poi di quanta tenacia occorra per far entrare l'opzione cruelty free nelle istituzioni comunali e regionali. Assaggeremo una torta di mele tradizionale rivisitata senza crudeltà. Filosofeggeremo sulla possibilità per un esercito nazionale di fare la scelta vegan tipicamente non violenta. Scorribanderemo tra le notizie a tema animalista uscite recentemente sulla stampa e concluderemo con una carrellata di news. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Terza e ultima parte della lunga intervista con il professor Antonio De Marco, fondatore del Parco dell'Abatino, un rifugio e centro di recupero per animali selvatici ed esotici che siamo andati a visitare in provincia di Rieti. Questa lunga intervista ha fatto da premessa alla conoscenza dei singoli individui animali ospitati dal centro, che vi proporremo nelle prossime puntate. Il professore ci racconta la storia di alcuni scienziati che, nonostante facciano esperimenti comportamentali sugli animali, poi si oppongono all'idea che tali animali debbano morire e ci dà la sua visione rispetto al ruolo del volontariato in campo animalista, una visione che troviamo particolarmente avanzata e illuminante. Una forte attenzione verso la condizione animale è premessa fondamentale per ragionare sopra la condizione umana. Alcuni ricercatori francesi, in particolare del professor Thierry, che per anni ha studiato sui macachi tonkeana, tipo di scimmie di primati che erano poco conosciuti, li ha studiati, ci ha permesso di conoscere anche caratteristiche del tutto particolari nel loro comportamento, quindi insomma delle informazioni preziose. A un certo punto questo gruppo di scimmie si scopre che erano portatori di infezioni, in particolare una forma erpetica che potrebbe essere pericolosa per l'uomo, quindi sono state isolate per un certo numero di anni e poi si è deciso che insomma dovevano essere soppresse. Questo gruppo di ricercatori si impegnò molto per evitare questa fine per animali che erano stati studiati per anni, quindi a cui loro erano affezionati anche, questi studi sempre sul comportamento. Al congresso di primatologia lanciarono un appello, si era trovata anche una strada per poterli ospitare. Noi stessi avevamo dato una disponibilità, anche se portare delle scimmie con herpes e qui voleva dire che la struttura sarebbe stata chiusa, isolata, eccetera. Comunque, insomma, si eravamo mossi in qualche modo un impegno. Poi in realtà si era trovata una strada negli Stati Uniti. A insaputa di questi ricercatori, mentre stavano al congresso, o mi pare il giorno dopo, una domenica, li uccisero tutti questi animali. Questo l'ho detto come esempio di come all'interno della ricerca ci siano anche molte sensibilità che si muovono sul piano dell'empatia, della salvaguardia di queste specie. Abbiamo un sito che www.parcabatino.org in cui cerchiamo di aggiornare e in quella sede potremmo anche dare delle indicazioni. Per esempio, noi avevamo avuto l'esigenza di un apparecchio per i raggi X e so che in qualche modo alcune strutture mi hanno detto, anche la LAV si era impegnata insomma a fare questa una raccolta di fondi per potercela far avere. Le strutture sono la cosa insomma molte volte che ci serve, reti eccetera, sì, magari. Per quanto riguarda le persone, per come la vedo io, insomma l'aiuto dei volontari è importante eccetera, però quanto sarebbe importante se a parte dello Stato si facesse carico della struttura pubblica di assumere delle persone e poi dislocarle presso lavorare un determinato numero di tempo per il mio studio. Non lo dico questo perché in presenza di una disoccupazione giovanile, di un problema così grosso che si sente, qui lavoro ci sarebbe e quindi se in parte lo Stato, la struttura pubblica potesse farsi carico finanziariamente, non dando i soldi a noi, ma pagando della gente che poi può venire da noi come può venire da altra parte, insomma, potrebbe essere anche una soluzione, una risposta, mi pare, in linea. Perché dire soltanto sì, facciamo venire i volontari, benvengono, ma poi questi ragazzi, cioè è possibile, è giusto far venire delle persone che non hanno un lavoro a lavorare perché probabilmente hanno questa sensibilità, ma poi si ritrovano magari a avere uno stipendio, non avere accumulato niente per quanto riguarda una eventuale pensione, tutto quanto. Si rischia così appunto di creare dei lavori mascherati, quindi qui servono dei lavori veri, qui come può essere un museo, come può essere un'altra struttura, insomma io direi che sarebbe più giusto muoversi sollecitando impegni da parte di questo tipo qua. D'altra parte si parla tanto in termini generali, sembra che un paese debba essere giudicato dal PIL, da quanto aumenta, si parla tanto della crescita. Forse un paese bisognerebbe che si misurasse non tanto su una crescita basata soltanto su alcuni parametri economici, ma sul grado effettivamente di benessere, di felicità reale che sa garantire ai propri cittadini. Quindi non basta soltanto garantire uno stipendio per un lavoro che poi in qualche modo è fonte di frustrazione. Noi abbiamo tantissimi lavori che sono necessari, che hanno dal punto di vista adesso per il settore che a noi ci interessa, che è quello ambientale, sono dei lavori importanti, necessari, che nel futuro sempre più ne abbiamo bisogno. Perché allora se parliamo di crescita non investiamo in quel senso lì? In qualche modo è la struttura, è la società, è la struttura pubblica, il governo, insomma chi è l'istituzione che dovrebbe in qualche modo garantire questo processo. Quindi noi siamo parte di queste aperture che ci dovrebbero essere. Non è che voglio escludere l'importanza dei volontari eccetera, ma mi pare che non si risolva il problema, ecco. Voi qui al centro siete vegetariani, vegani, onnivori? Dunque noi siamo vegetariani, siccome ospitiamo spesso vegani, quindi all'occorrenza siamo anche vegani. Professore Antonio De Marco, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Il tema è quello delle difficoltà che stanno incontrando due politici locali a far valere le buone pratiche cruelty free, ormai diffuse a tutti i livelli della società, nelle pubbliche istituzioni cittadine regionali. Ennesima dimostrazione del fatto che le istituzioni sono tragicamente arretrate rispetto alla società che dovrebbero, teoricamente, non solo rappresentare, ma anche, eventualmente, per chi come noi crede nel progresso, portare verso un futuro migliore. Allora, oggi vi raccontiamo di due notizie in evidente e stridente contraddizione una con l'altra, pur trattandosi dello stesso argomento, e cioè la possibilità di avere menù vegan all'interno di mense pubbliche. Il caso riguarda da un lato la Regione e dall'altro il Comune di Firenze. Alla Regione Toscana, da ora, è possibile avere un menù vegano alla mensa del Consiglio regionale, mentre al Comune di Firenze questa strada è stata bocciata ancora prima che potesse nascere. Ne parliamo per la Regione con Mauro Romanelli, consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Che cosa è successo in Regione? Finalmente è stato applicato quello che in realtà era già previsto dall'appalto per il servizio mensa del Consiglio regionale, e cioè che i dipendenti potessero fruire di un pasto vegano o vegetariano o per celiaci a richiesta. La cosa è stata attivata ora dopo varie difficoltà tecniche che erano state frapposte e che un pochino erano pretestuose. Oggi finalmente con una semplice mail il dipendente può prenotare la sera prima o la mattina fino alle 10 o addirittura, udite udite, il lunedì per tutta la settimana. Siamo riusciti a fare questa enorme semplificazione, il menù vegano. Un fatto di libertà ovviamente che va nel senso della difesa dei diritti dell'animale e dell'ambiente, ma anche appunto della libera determinazione individuale, perché non riconoscere la libera scelta alle persone. Appunto, sembra un principio anche semplice che dovrebbe essere proprio di qualsiasi assemblea elettiva, in particolare di qualsiasi ente pubblico, Ma in Comune di Firenze, come ci racconta Tommaso Grassi, consigliere comunale di sempre di Sinistra Ecologia Libertà, la storia è andata in un altro modo. Sì, perché dopo una prima approvazione in commissione, quindi dopo che tutti potevamo sperare un'approvazione, la mozione era già la seconda volta, la presentavamo durante il mandato elettorale, chiedeva due cose semplici. Uno, l'inserimento dell'opzione vegana, quindi nessuna costrizione, solamente un'opzione all'interno di tutte le scuole, di tutte le mense scolastiche di competenza comunale. E l'altra, di poter inserire sia l'opzione vegetariana che l'opzione vegana in tutti gli altri contesti. Penso alla biblioteca dell'Oblata, alla caffetteria delle Murate, insomma tutti i vari luoghi di competenza e di proprietà del Comune Firenze dove in qualche maniera si dà del mangiare. E quindi ci sembrava una possibilità, un'opzione anche qui, che potesse essere inserita nei bandi di gara e che potesse dare l'opzione. Ci sembrava giusto sfatare e soprattutto distruggere quell'epiteto che qualche consigliere del PD si era permesso di dire, cioè se non potete mangiare carne, un aperitivo, mangerete le patatine e un po' di spumante. Insomma, purtroppo il clima che credevamo poteva essere chiuso dopo anche l'apertura del Comune di Milano, penso anche recentemente anche all'inserimento dell'Osi vegana alla festa del PD, invece purtroppo siamo ricaduti nelle patatine e nello spumante, che c'erano ben altre priorità, e il fatto sta che 16 voti contrari e solo 6 favorevoli, credo sinceramente sia un atteggiamento assolutamente di chiusura, che ci fa arrivare alla conclusione di dire che tutte le belle esperienze anche sul livello fiorentino, come per dire anche la festa democratica, erano molto probabilmente semplicemente del fumo negli occhi e forse solo esclusivamente dovute ad trovate elettoralistiche e non ad una questione invece in cui ci credono davvero, perché si crede che se nelle feste si ha un atteggiamento, nell'atteggiamento si ha un certo atteggiamento, anche dopo nelle istituzioni bisogna portare avanti la stessa posizione. Evidentemente sì, e comunque stride questo contrasto rispetto alla situazione in regione. Come mai in regione è stato possibile averla questa normativa? Ho avuto la fortuna di essere stato inserito nel consiglio, nell'ufficio di presidenza, e lì insomma ho fatto un po' di baccano. Ora è vero che lì si parla di persone adulte, le problematiche nel Comune di Firenze sono state sollevate soprattutto a proposito dei bambini, in base a pregiudizi che però mi pare non abbiano veramente fondamento. Magari rivolgendosi a un pubblico adulto era più facile affermare che una persona che ha compiuto i 18 anni possa scegliere come alimentarsi, e dopodiché ci è voluto 3 anni e mezzo comunque, quindi evidentemente c'è ancora una resistenza, forse c'è bisogno di un ciclo o comunque di un dossier di informazione per i consiglieri comunali e regionali su tutti gli aspetti anche dietetici per la salute dell'alimentazione vegetariana e vegana, visto che ormai anche la Società dei Nutrizionisti degli Stati Uniti ha da anni affermato che la dieta vegan è adatta a qualsiasi età, a qualsiasi situazione. Grazie a Mauro Romanelli e a Tommaso Grassi, speriamo che in futuro si riesca a ottenere qualcosa di più. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi andiamo sul dessert, facciamo un bel dolce, una bella torta come quelle che facevano le nonne se fossero state delle nonne vegan. E questa è una torta di mele classica, cominciamo sempre con gli ingredienti, questa volta per una tortiera di circa 26 cm di diametro, che ci fa fare 6-8 fette, 6 se siamo golosi, 8 se siamo un po' più moderati. Prendiamo 2 mele golden, 200 g di farina, 100 g di fecola di patate, una bustina di lievito o anche del bicarbonato, 100 g di zucchero di canna, 100 ml di olio di semi di girasole, 150 g di acqua, 50 g di vin santo, la scorza di un limone, una bustina di zafferano, una presa di cannella in polvere e un pizzico di sale. Allora inseriamo nel bicchiere del frullatore a immersione l'olio di semi, lo zucchero, l'acqua, la scorza di limone e il vin santo, e facciamo emulsionare tutto per un paio di minuti. A parte in uno zuccotto o comunque in un recipiente semisferico, mescoliamo con la frusta la farina, la fecola e il lievito che precedentemente abbiamo setacciato con un colino. Questo ci permette di non avere grumi al momento che impastiamo la nostra torta. Poi uniamo la parte liquida alla parte in polvere e continuiamo a mescolare con la frusta, aggiungendo lo zafferano, la cannella e un pizzico di sale. Tutto è molto rapido, 5 minuti riusciamo a fare questo dolce. versiamo l'impasto, che deve essere bello cremoso, nello stampo che abbiamo precedentemente oleato con l'olio di semi. Uniamo le mele sbucciate e tagliate a spicchi sottili, sistemandole come una sorta di spirale dall'esterno verso l'interno. Oppure possiamo disporle come più ci piace, diciamo questa è una presentazione un po' coreografica. Cuociamo il tutto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Possiamo fare la famosa prova dello stecchino, quindi inseriamo uno stuzzicadenti dopo circa mezz'ora o 40 minuti e se lo stecchino esce fuori asciutto la torta è pronta, altrimenti lo lasciamo alcuni minuti ancora in forno. La sforniamo, la facciamo freddare pochi minuti e la serviamo con una bella spolverata di zucchero a velo. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Sostiene Vallauri. Giunge notizia che l'esercito norvegese ha annunciato di voler adottare un menù vegetariano tutti i lunedì, sia per le truppe in patria sia per quelle impegnate all'estero, con l'obiettivo di limitare le emissioni di gas serra, poiché è ben noto che la produzione di proteine animale è molto più dispendiosa in termini di uso di risorse non rinnovabili rispetto a una alimentazione che si basi sulla produzione di proteine vegetali. Questa notizia può essere accostata alle numerose altre che segnalano una estensione della pratica vegetariana e vegana con la nascita di ristoranti, trattorie, con l'apertura di sezioni dedicate nei supermercati o ancora recentemente come il menù vegano introdotto addirittura alla Oktoberfest. Di questa tendenza parliamo con Luigi Lombardi Vallauri. Io ho dei ricordi giovanili dell'Oktoberfest quando studiavo diritto romano a Monaco e ricordo quel fiume di birra che diventava un fiume di orina. Era veramente caratteristico, vedevo i bavaresi come delle condotte in cui avveniva questa trasformazione abbondante. Io non credo che il passaggio al veganismo sia solo una moda. Certamente è anche una moda, ma ci sono delle solide ragioni che mi fanno pensare che sia piuttosto un cambiamento epocale, quasi di sicuro irreversibile. C'è una prima ragione, è quella del vegano etico numero uno, diciamo, cioè il non violento alla Capitini, il convinto alla grande compassione, alla Maha Karuna, vuole ridurre la crudeltà del mondo, mangiare cibo animale fa male agli animali. Poi c'è un secondo vegano, l'ecologista, mangiare cibo animale fa male al pianeta. C'è un terzo vegano, lo chiamerei il filantropo, l'aumento del carnivorismo dei ricchi, in particolare cinesi, accresce la fame dei poveri. Mangiare cibo animale fa male ai poveri. Poi c'è un vegano che possiamo chiamare dietetico medico, come da noi Luciana Baroni, Leonardo Pinelli o Umberto Veronesi. Mangiare carne fa male alla salute dell'uomo. Ho tra le mani il libro The China Study di Colin Campbell, che è un'impressionante indagine epidemiologica condotta anche in Cina sul male, diciamo, medico dell'eccesso di proteine animali. Poi c'è un quinto figuro, lo chiamerei il vegano etico 2, che si può far risalire in qualche modo all'esempio di Socrate. Il trattamento fatto subire agli animali, soprattutto agli animali da macello e da cibo, disonora l'uomo. Quindi questo quinto vegano è un vegano umanista. Mangiare carne fa male all'onore dell'uomo. E poi vedrei un sesto personaggio, lo chiamerei il vegano etico sapienziale, e cioè l'esperienza contemplativa, diciamo pure mistica, è strutturalmente solidale in quasi tutte le tradizioni con la non violenza. E quindi, diciamo, mangiare carne fa male alla piena realizzazione dell'uomo. Ho in mente il buddismo, il jainismo, quelli particolarmente asciutti, non mitologici, un induismo alla Gandhi e tutti i suoi predecessori, come appare da un ottimo libro della Doniger di cui ho già parlato. E allora, diciamo, concludendo, più che una moda, mi sembra un passaggio irreversibile. Se ne accorgono anche gli specialisti di mercato. Alla stazione di Alessandria ho copiato un manifesto McDonald's. McDonald's è la più grande industria del sangue che ci sia su questo pianeta. Beh, da un lato ti dice la nostra è tutta carne italiana che proviene da oltre 15.000, adesso sono delle cifre così assurde, allevamenti italiani. E dall'altro ti propone una linea vegan, non solo vegetariana, ma proprio vegan eccellente. Quindi se perfino McDonald's ha capito dove tira il vento, vuol dire che il vento tira in quella direzione lì. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Vediamo in che modo i quotidiani di questa settimana hanno affrontato la questione animale, quali casi hanno fatto notizia, in che modo queste notizie sono state riportate. Cominciamo da un articolo del 26 novembre pubblicato sul Corriere della Sera ed è un articolo molto serio, una denuncia che riguarda l'uso degli animali nelle produzioni cinematografiche. Il titolo è questo: La tigre di Pi e il cavallo di Spielberg, animali maltrattati sul set. La denuncia, l'accusa di Hollywood Reporter, 27 capre e pecore morte durante la lavorazione di The Hobbit. Nell'articolo di Giuseppe Guastella si ricordano numerosi casi di animali maltrattati e addirittura uccisi durante la lavorazione di film anche molto conosciuti. Si parte dal Glass, un cavallo che finì investito da un vagone ferroviario durante la lavorazione di Coraggio Infinito, una fiction televisiva sui pionieri del West molto popolare negli Stati Uniti, al cavallo morto durante la lavorazione di War Horse di Steven Spielberg e poi appunto alle 27 capre e pecore finite durante la lavorazione di The Hobbit. Ma la cosa che più inquieta di questo articolo è che la certificazione che compare spesso alla fine dei film e che garantisce che gli animali non sono stati utilizzati, sfruttati, feriti per girare le scene, in realtà dà ben poche garanzie. Perché secondo l'inchiesta del settimanale, appunto, The Hollywood Reporter, la American Human Association, cioè l'organizzazione no profit che fornisce questa certificazione, alla fine fornisce il riconoscimento suddetto nei titoli finali perché ha sempre classificato la morte e il ferimento degli animali come incidenti. Si tratterebbe invece, scrive l'articolista, di episodi gravi dovuti all'incuria e alla negligenza con cui vengono usati dall'industria cinematografica. Veri maltrattamenti. Un atteggiamento compiacente nei confronti delle major che pagano $80 l'ora il lavoro degli ispettori della AHA e talvolta finanziano le sue iniziative. Quindi attenzione, non fidiamoci della scritta che compare in fondo ai film. C'è un lavoro ulteriore da fare per gli animalisti di indagine su come queste produzioni cinematografiche si comportano rispetto agli animali. Hanno poi fatto notizia delle nascite in particolare di leoni all'interno di zoo. Uno, del 22 novembre, riporta la nascita del leoncino Caris in Scozia, nel Blair Drummond Safari Park, e ci sono immagini molto divertenti di questo piccolo leone che gioca e che i quotidiani, ad esempio il Corriere della Sera, hanno riportato come fotonotizia. Ma sempre di leoni, ma con una fine ben diversa, si parla invece il giorno dopo. In questo caso i leoncini sono Fahir e Sayel, nati in uno zoo. Evidentemente esiste anche uno zoo nella striscia di Gaza e in questo caso si è passati dalla gioia per la nascita al dolore per la repentina scomparsa. Il titolo del Corriere della Sera del 23 novembre è questo: dalla festa al dolore per i due leoncini di Gaza. La storia, i cuccioli morti nello zoo a due giorni dalla nascita. La vita è sempre più dura nella striscia, penuria e prezzi triplicati. Leggiamo l'attacco dell'articolo di Francesco Battistini. Ci vuole la forza d'un leone per vivere di questi tempi a Gaza. Fahir e Sayel, maschio e femmina, partoriti lunedì nello zoo Bissan, primi cuccioli mai nati da una gabbia della striscia, mercoledì sera erano già morti. Non si sa bene come né perché. Il freddo, la fame, chissà. e anche questa volta ci pare la condizione animale nella striscia di Gaza una metafora della condizione anche umana in quel luogo così martoriato del vicino Oriente. Su vari giornali è poi comparsa una scena sotto forma di fotonotizia, di brevi articoli veramente triste riguardo alla famiglia Obama, la Casa Bianca, con la notizia di due tacchini, fra virgolette, salvati dal Thanksgiving Day, questa triste festa statunitense che comporta un enorme eccidio di questi bellissimi animali. Ecco, la notizia voleva in qualche modo santificare la famiglia Obama con il presidente che ha dato una sorta di grazia presidenziale a questi due animali, che in realtà sono stati messi alla berlina addirittura con un concorso al quale i cittadini hanno potuto partecipare per scegliere quale dei due salvare. La bontà della famiglia Obama sarebbe stata poi quella di salvare entrambi, non solo il salvato dal voto popolare. Ci sembra una bruttissima performance del presidente Obama, una forma di dominio e di sbeffeggiamento di animali indifesi che qualificano questo suo comportamento come profondamente lesivo della dignità della vita di individui indifesi. Alla famiglia Obama potremmo consigliare la lettura di quella parte di Se niente importa di Jonathan Safran Foer, dove si parla di quanto sarebbe più moralmente giusto e più educativo festeggiare il Thanksgiving Day senza sacrificare vite animali. Chiudiamo segnalandovi un breve articolo dal Fatto Quotidiano di lunedì 25 novembre, in particolare dalla rubrica Vivario, curata da Maurizio Maggiani, lo scrittore, autore a suo tempo del Coraggio di un Petti Rosso, e che ogni settimana dedica un suo piccolo scritto a vite di altri animali. In questo caso il titolo è Gabbianella che discuti con il gatto. C'è quasi un riferimento al famoso libro di Luis Sepúlveda. Ad ogni modo, questa è la scena che Maggiani descrive nel suo articolo. Alle fondamenta delle Grazie, il bastione che teneva un tempo il mare discosto dalle case di Genova, sull'antico parapetto di pietra serena all'altezza del grosso buco dove una volta c'erano le ultime case del quartiere di Madre di Dio, un gabbiano novello, magari una gabbianella, sta dicendo qualcosa di stridulo a un grosso gatto. Il gatto è nero e nell'ombra della pietra ha gli occhi intensamente gialli. Il gabbiano è bianco e delicatamente grigio perlaceo. Con questa immagine di animali che convivono e che cercano di passare qualche ora di serenità all'interno di una città, chiudiamo Tigri di Carta di questa settimana. A domenica prossima. Intanto una bella notizia, l'azienda Mavica, l'SRL, già proprietaria di un allevamento di visoni a Noceto, Parma, ha ritirato il progetto che aveva depositato al Comune di Modena per la realizzazione in località Portile di un'ulteriore attività capace di contenere addirittura 40.000 animali. Sarebbe stato il più grande allevamento di visoni in Italia. C'è stata una importante mobilitazione per impedire che questo stabilimento si insediasse e in pochi giorni 14.000 persone hanno sottoscritto una petizione diretta al Comune di Modena per chiedere all'amministrazione di dichiararsi pubblicamente contraria al progetto. L'associazione antispecista Essere Animali il 22 di novembre 2013 ha diffuso questo comunicato stampa ringraziando le persone che hanno firmato la petizione e riconfermando comunque l'appuntamento per sabato 21 dicembre 2013 a Modena per una manifestazione in Piazza Grande alle ore 14.30 per ribadire il no agli allevamenti di visoni. www.essereanimali.org. Metteremo nel nostro blog una petizione che sta girando in questo periodo contro la terrificante lana d'angora. L'angora è qualcosa che viene sempre descritto come delicato, tenero, abbinato alla pelle dei bambini, si vedono sempre delle graziose ragazze che accarezzano i loro maglioncini, ma in realtà è un materiale che costa la vita ed enorme sofferenza a un numero gigantesco di animali e quindi è giusto informarsi e per chi è d'accordo è giusto firmare. Un'altra notizia che sta girando è quella che la provincia di Firenze ha autorizzato l'abbattimento illimitato di daini in varie zone del territorio di sua competenza, nonché un ingente numero di cervi, mufloni e caprioli. Sta girando una lettera, è un mail bombing che diramiamo volentieri per manifestare la contrarietà a questa barbarie. Infine abbiamo saputo che il comune di Lastrassigna ospiterà un circo con animali, ha ricevuto una richiesta di spiegazioni da parte di associazioni animaliste e la loro risposta è stata che siccome il circo si insedierà in un terreno privato, loro nulla possono fare. In realtà la Regione Toscana ha appena approvato una mozione che vieta l'attendamento di circhi con animali selvatici ed esotici. La legge 112 del 7 ottobre 2013 si avvia a destinare incentivi ad attività circensi senza animali, portando di fatto alla chiusura gli spettacoli che li utilizzano. C'è un ordine del giorno approvato recentemente in Senato che impegna il governo ad azzerare entro 5 anni i contributi ai circhi che sfruttano animali e ci sono le linee guida del CITES che vietano di fatto dal 2006 l'attendamento di circhi che detengono primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci notturni e diurni, nonché l'esposizione di rettili. Quindi praticamente tutti gli animali che vengono pubblicizzati negli stessi manifesti del circo. Ci si chiede allora com'è possibile che se le linee guida del CITES dicono questo, ancora i comuni sono così reticenti a voler esplicitamente vietare a questi circhi di attendarsi nei propri territori pubblicizzandosi con animali che sono esplicitamente vietati. Quello che chiediamo al comune di Lastrassigna è semplicemente di informarsi sulle linee guida del CITES e di farle applicare su tutto il suo territorio, privato o pubblico che sia, perché quello che è illegale lo è sia in una piazza che in un appartamento privato. Dopo l'interruzione dovuta alla kermesse del World Vegan Day, tornano i classici mercoledì culturali di Restiamo Animali alla Casa del Popolo di Settignano. La prossima data è quella del 18 dicembre, segnatevela! Dopo la consueta cena cruelty free a 10 euro, vi offriremo una discussione aperta con Massimo Filippi, autore, assieme a Filippo Trasatti, del libro Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del dominio, uscito quest'anno per i tipi di Eleutera. Come sempre potete cominciare a prenotare scrivendo a restiamoanimali@gmail.com. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.